Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi vi parlo dell'ultimo romanzo dell'americana Kathleen Shine, l'autrice del bestseller La lettera d'amore, che forse molti di voi ricorderanno. Il nuovo romanzo si intitola Tutto da capo ed è pubblicato da Mondadori con la traduzione di Stefano Bortolussi. Anche questa volta la Shine ci porta in un mondo di donne, madri, figlie, mogli ed ex mogli e mette l'accento su come le situazioni apparentemente definite possano essere improvvisamente stravolte. La protagonista è Betty, una donna di 75 anni che è stata appena lasciata dal marito dopo 50 anni di matrimonio. Le due figlie, Miranda, agente letterario, ed Annie, bibliotecaria, cercano di aiutarla a superare questo momento doloroso e nel farlo daranno a loro volta una svolta alla propria vita. Tutto da capo è dunque un romanzo che parla del delicato rapporto fra madre e figlie in un momento difficile. C'è qualcosa di autobiografico? Sentiamo che cosa ha risposto la Shine, intervistata da Maria Chiara Grandis. Not directly, not really. The story is created and also has a relationship to Jane Austen's Sense and Sensibility. Non direttamente, in realtà no. La storia è stata creata in relazione a Ragione e Sentimento di Jane Austen. Ma io, nella mia vita e nella mia famiglia, sono stata testimone di divorzi. Io ho una sorellastra molto, molto più giovane, non siamo cresciute insieme e così non ho un'esperienza diretta di cosa possa voler dire vivere con una sorella. Però ovviamente ho esperienza della vita in famiglia. Ci sono elementi che hanno a che fare con la vicenda, ma non c'è una correlazione propriamente autobiografica. Certamente i miei trascorsi familiari mi hanno influenzata, ma non in modo così diretto. Quanto è importante allora il rapporto con la madre nella vita di una donna? Well, for me it's tremendously important. My mother is a huge presence in my life and always has been, and a very positive one. Per me è enormemente importante. Mia madre è una grande presenza nella mia vita da sempre, ma in senso assolutamente positivo. So che per altre donne non è lo stesso. Durante la giovinezza mia madre è stata un modello. Da lei ho appreso i comportamenti. Tra l'altro mia madre ha voluto completare gli studi universitari dopo che io ero nata, quando ero piccola. Io pensavo che studiare all'università fosse un lavoro e avevo deciso che avrei fatto quello da grande. Questo per dire che influenza enorme abbia avuto mia madre nella mia vita. È una persona con la quale ho sempre potuto parlare. Ha anche un grande gusto letterario e in più dice sempre che i miei libri le piacciono, quindi si immagini se non parlo con lei dei miei libri. Mi ha sempre aiutato a capire quali sono le cose più riuscite e quelle meno. Mi ha sempre aiutato a correggermi. Per me è una persona importante, un punto di riferimento, un'amica, una guida, ed è anche quella che mi dice di pettinarmi i capelli. And also she, you know, yells at me and tells me to brush my hair. La citava lei prima, qual è il suo rapporto con Jane Austen, che è forse una delle più grandi scrittrici di romanzi d'amore? I love Jane Austen. I read her novels over and over again. I think that some of them are as close to perfect as a novel can be. Io amo Jane Austen. Leggo e rileggo continuamente i suoi romanzi. Penso che alcuni di essi siano vicino alla perfezione, per quanto sia possibile per un libro. È una grande fonte di ispirazione. Chiunque scriva commedie è influenzato da Jane Austen, consapevolmente o no. Io certamente lo ero quando ho iniziato a scrivere Tutto da capo. C'è stata sempre, durante l'ideazione e la stesura di questo mio libro, un'interazione permanente nella mia testa fra ragione e sentimento e ciò che andavo scrivendo. Nel senso che per me scrivere Tutto da capo è stato un altro modo di rileggere Jane Austen e scoprire sempre cose nuove rispetto alla lettura precedente. Sono una grande fan, diciamo così. See more things in it than I ever had. I'm a big fan, let's put it that way. Qual è il suo preferito? Emma. I love Emma. I think it's a, you know, it's a book about a rather unpleasant person who Emma. Adoro Emma. È un personaggio che è al tempo stesso sgradevole e irresistibile, qualcosa che non esiterei a definire magico. Amo quel libro. Diciamo che nel suo ultimo romanzo gli uomini non fanno proprio un'ottima figura. C'è chi è succube della seconda moglie, chi mente, chi ruba e chi tradisce. Le donne invece sembrano più forti. Questo fa parte in qualche modo della sua esperienza? No, not at all. And I think that the three women the three Weissmans look better. But if you look at, well, and even they, I mean, are hardly perfect. No, in realtà no. Penso che le tre donne, le protagoniste del libro, facciano una figura migliore, ma davvero non sono donne perfette. Guardiamole in faccia. Miranda con il suo egocentrismo, Annie con la sua prepotenza, Betty così fragile e confusa. In più, se andiamo a vedere anche gli altri personaggi femminili, Felicity e le due gemelle Amber e Crystal, beh, insomma, non sono proprio modelli di donne perfette da proporre in uno spot pubblicitario, tutt'altro. Secondo me, la trama certamente pone l'accento su azioni poco esemplari commesse da uomini, ma se poi andiamo a vedere l'insieme dei personaggi, spero che si noti che tutti hanno i loro difetti, uomini o donne che siano. Non dipende dal genere. Look at all the different characters. I hope that you see that all of them are flawed and some more than others, but there really isn't a gender bias there. Nel suo ultimo libro ci sono diversi tipi d'amore trattati senza pregiudizi, quello fra genitori e figli, quello fra marito e moglie, ci sono famiglie allargate, anche famiglie gay. In conclusione, il lieto fine arriva per molte di queste storie. Lei crede che sia possibile nella vita reale? Well, I think anything's possible. Is it probable? I don't know. But I felt that for these characters, that's where their lives were going, and I wanted to give that to them. Io credo che tutto sia possibile, che sia probabile, poi non lo so. Ma ho sentito che a questi personaggi volevo dare questa possibilità, anche se francamente non so se per loro si possa parlare di lieto fine. Quello che ho cercato di fare è stato dar loro una possibilità, se non proprio una felicità a 360 gradi, quantomeno un nuovo inizio. In questo senso, forse non c'è nemmeno un vero e proprio lieto fine. Perché sa, quando si scrive, ci si affeziona ai propri personaggi, si intavola con loro un vero e proprio rapporto. E alla fine si ha anche la sensazione di dover loro qualcosa, specialmente dopo tutte le peripezie che gli faccio capitare. Sì, glielo devo. E questa era Kathleen Shine, autrice di Tutto da Capo, pubblicato da Mondadori. Veniamo ora all'iniziativa di Radio 24 in collaborazione con il Salone del Libro di Torino, lo ricordiamo sempre, dal Lingotto dal 13 al 17 maggio, quindi ormai ci siamo. Questa è dunque l'ultima occasione per aggiudicarvi due biglietti per il Salone, tema della 23esima edizione, la memoria. E allora vi stiamo chiedendo qual è il primo libro di cui avete memoria, qual è il primo libro della vostra vita, quello che vi ha emozionato di più. Scrivete una mail al cacciatore di libri @radio24.it. Ogni settimana due di voi possono appunto aggiudicarsi due biglietti, e tra l'altro tutti quelli che hanno scritto o che scriveranno riceveranno un buono sconto da spendere sul sito lafeltrinelli.it. Ma veniamo alle due mail scelte oggi. La prima ce l'ha scritta Barbara Porteri, che dice: il mio primo libro fu La metamorfosi e altri racconti di Franz Kafka. Ne avevo letti altri prima di incontrarlo, ma lo considero il primo per la forte emozione che provai allora. Lo ricordo come fosse ieri. Leggevo seduta in balcone, al sole, nel tentativo di abbronzarmi gambe e braccia. Il caldo soffocante, il sudore sulla pelle, il riverbero del sole, l'odore della crema abbronzante, nel ricordo si mescolano alla sottile e profonda sensazione di paura e di smarrimento causata da quella lettura. E ancora la seconda mail scelta invece l'ha scritta Susanna Maria De Candia. Il primo libro che ha scosso la mia coscienza e messo in subbuglio la mia anima lo scelsi in modo casuale, fra altri da leggere su suggerimento della docente di italiano al ginnasio. Avevo 14 anni e cominciai a pensare il mondo in modo diverso e a ritenere la letteratura un vero impegno sociale. Tutto questo grazie a Fontamara di Ignazio Silone. Che cosa mi aveva colpito? La storia è intrigante, non semplicemente scritta ma sentita da chi l'ha trasposta sulla carta. La vivacità delle donne, pronti ad agire più degli uomini per ribadire i propri diritti. Il profumo della polvere o del terreno mentre scorri le pagine, come se fossi lì, distante e in disparte, a guardare gli avvenimenti raccontati. Queste due persone dunque si aggiudicano due biglietti per entrare al Salone del Libro di Torino dal 13 al 17 maggio. Vi ricordiamo che ci sarà anche Radio 24, venite dunque a trovarci nei nostri studi nel Padiglione 2 accanto alla Sala Blu. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.